io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, de. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dove sei, Veneti? Grazie, grazie. Togliere il galateo alle forze dell'ordine e riconsegnare il manganello. Grazie, grazie. Dove sei, Veneti? Prima di tutto volevo intervenire per due casi, quello di Zaia, con cui sono d'accordissimo. Perché l'igiene che ha il nostro popolo, i veneti, i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi, di un regime di pulizia personale che è particolare. Anche l'alimentazione, la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero. Detto con il massimo rispetto. Dove sei, Veneti? Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. Per non parlare del sugiciume che hanno nelle loro cucine dei ristoranti. Ma non e dica, loro hanno ma un non sacco dica di... stupidaggini. Ma, guarda, ma tu non sei dica del stupidaggini. Settore, ah, cioè lei sta dicendo che, che l'AS non controlla i ristoranti cinesi? No, non li controlla. No, ma questo è gravissimo. È una stronzata. Questo è grave. Questo è molto grave. Così, è molto io grave. Ho ricevuto. Giuseppe da Milano, grazie. Andassero in AS a controllare il tiramidux lì, quel ristorante di quel fascista. Andassero tutti in AS a controllare che quello lì è un evasore fiscale. Non fa. Adesso, è un evasore fiscale dichiarato, anche da lui, dichiarato sì. Perché ha detto pubblicamente, e sono sicuro che anche nella cucina si mette le dita al naso e al culo prima di fare il suo tiramisù. Andate a controllarlo. Andate a controllare il ristorante. Come si chiama quel fascista maledetto? Come si chiama? Polegato. Polegato. Andate, si metterà i diti, le dita nel naso, oltre che nel culo, Milano, prima di cucinare il tiramisù. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Barisoni gay. Questa sera Barisoni ha fatto un ritardo, ha riportato un ritardo, come i Freccia Rossa di queste ore, di questi giorni, sì, caro Parenzo. Sì. Il ritardo di 2 minuti e 52, che corrisponde nella logica radiofonica, un ritardo di quasi 3 minuti, corrisponde praticamente in sostanza a un'ora e mezza di un ritardo di un Freccia Rossa tra Milano e Roma. È uguale. Nella logica di un programma radio, un ritardo di 2 minuti e 52, cronometrato dalla Corte e da altri tecnici qui che sono dietro il vetro e che stanno a conteggiare tutte le cose, ovviamente pro domo mia, contro Barisoni, contro il vice direttore di questa radio. Ma conteggio c'è un bel preciso, clima, identico. C'è un bel clima io che mi viene riportato ora dopo ora. C'è un bel ora clima dopo ora, in azienda. C'è un bel clima. È come lì, il ritardo di un Freccia Rossa tra Roma e Milano, di un'ora e mezza di ritardo, che è una cosa gravissima. Uno dovrebbe chiedere di solito il rimborso, no? Dopo 60 minuti si chiede il rimborso. Se uno fa il paragone, dovrei chiedere non so che cosa, cioè poi adesso ci penso su che cosa potrei chiedere anch'io, un indennizzo. Ma tu di un'ora che e mezza, indennizzo? Certo, so, io dovrei chiedere un altro tipo di indennizzo. Adesso ci penserò. 2 minuti e 52, sai che cosa mi ha detto? C'è il coronavirus. Ma vaffanculo, il coronavirus cosa c'entra? Beh, la motivazione generico, mi sembra sufficiente. Ma cosa c'entra? Comunque, il coronavirus vale per tutti. Il coronavirus, ascoltato, ho ascoltato con passione la copertina che il nostro maestro La Corte ha fatto. Che è successo? Che hai fatto? Devo dire che riascoltare la trasmissione è drammatico. Ma l'hai sempre detto, cioè, questo. No, ma non è una cosa nuova. È terribile. Allora, anche riascoltarmi sì, è terribile. Sì, certo, assolutamente. Terribile. Sì, perché una volta che sei qua dentro sei talmente preso da quello che accade. Che non riesci a mantenere la razionalità che di solito usi in altre cose. Hai questa perversa capacità di ridurre persone anche con me. Mi è rimasta solo questa, caro Maria. Di trascinarmi in questo gorgo infernale e dire quelle volgarità inudite di cui chiedo scusa. Allora, ragazzi, si è parlato per tutta la giornata. Allora, facciamo un attimo il punto sulla questione contagi. Fermo un attimo. Quello la fanno i giornali radio, le notizie, eccetera. Noi non facciamo contagi di nessun tipo. Vinitaly rinviato a metà giugno. Questo è molto grave. Te ne frega niente delle aziende. No, me ne importa. Allora, si è parlato per un po' di tempo di questo spot francese. Non è uno spot, devo correggere. È un video satirico di una televisione francese che si chiama Canal Plus. Canal Plus, dai. Ho studiato naturalmente in Francia, dai. Bellissimo. Un attacco all'Italia, dai, che funziona. Su. Ma cosa c'entra? A parte che non è France 2, ma è Canal Plus. Ho diretto France 2 per tanti anni. Allora, questa trasmissione che si chiama Groland su Canal Plus, che è una trasmissione satirica, hanno mandato in onda questa roba qui, che è un video che facciamo sentire, facilmente traducibile, ma se volete vi faccio anche, vi porgo la mia preziosa traduzione, in cui pigliano per il culo in maniera anche ruvida, ma io non riesco ad attaccare. Ci sono state oggi delle persone indignate, dei politici, addirittura hanno minacciato un caso diplomatico. Poi nella serata, nel pomeriggio di oggi, questi francesi di Canal Plus hanno ritirato quello che loro stessi hanno creato. Dunque se la sono fatta sotto. Cosa vuol dire che è una cosa bigliacca? Cosa hanno ritirato? Infatti non possono più ritirare un cazzo. Hanno detto che non manderanno più in onda questa roba qua. Diffusa in tutto il mondo, dunque è ridicola questa cosa qua. Cosa cazzo ritiri? Cosa ritiri questo filmato quando già è, come dire, è stato diffuso urbi e torbi, ormai è praticamente inutile. Negli anni 70, 80, 90, prima dell'esistenza del web, dell'internet, ritirare una cosa e quella roba lì praticamente non era usufruibile da nessuno. Ma oggi che cosa ritiri, vigliacco? Io invece dico che è una roba satirica, che ci sta tutta. Hanno fatto satira sull'Italia e la satira è consentita, è permessa, dunque non c'è nulla. Bisogna ridere di fronte a queste cose, non indignarsi. I politici si dovrebbero occupare di altro, non dei servizi satirici di una televisione francese privata, non manco la televisione di Stato. Sono d'accordo per la prima volta. I ministri oggi dire uno scandalo, la Francia deve spiegare. Che spiega la Francia? È una televisione privata che fa un servizio satirico dove c'è un pizzaiolo, la pizza simbolo dell'Italia, come sapete. Però diciamo che non fa ridere, che sputa sulla pizza. Diciamo che non fa ridere. Invece a me fa ridere. Non scherzare su questo. Ma chi te l'ha detto? Ma che vuoi interrompere la satira perché c'è il coronavirus? Chiudiamo la satira. Un giudizio personale. Poi sono d'accordo con te che la politica non se ne deve fottere. Ma di questa dai, roba. Su, ma che sono d'accordo con sentiamo te, sta roba, dai. Cette émission vous est présentée par la pizza Corona. La nouvelle pizza italienne qui va faire le tour du monde. Questa trasmissione vi è presentata da Pizza Corona, la nuova pizza italiana che fa il giro del mondo. E che c'è un signore che scatarra sulla pizza, un pizzaiolo italiano. Che poi ormai i pizzaioli italiani ce ne stanno pochi, ma comunque. Tutti egiziani, molti sono egiziani. Ragazzi, occupatevi di altro, non di una televisione francese. Tutti indignati contro la Francia. Cosa cazzo vi indignate con la Francia? La Francia non c'entra niente, sono dei privati signori che hanno fatto il loro mestiere e che fanno delle cose corrosive, delle cose un po' rudi, delle cose un po' forti. E allora qual è il problema? Charlie Hebdo, Charlie avrebbe fatto di peggio se fosse stato in una televisione francese, no? Fosse stato a capo di una televisione francese, cosa avrebbe fatto? Enormi pizze, con che cosa. Naturalmente la rappresentazione grottesca dell'Italia, naturalmente come merita. In particolare all'epoca del governo Renzi, naturalmente. Ce ne avrei fatto le pizze con la faccia di Renzi, con la scatarrata. La pizza battuta, tutta larga, con dentro ingredienti folli. Avrei messo dentro, naturalmente, per segnare la pazzia, naturalmente, di un paese dato in mano a Renzi. Naturalmente, fermo là. lavati, Cruciani, lavati! Sono quelli come te che fanno sì che il coronavirus si sparge! Lavati, zozzone! La zanzara. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cuccio, il napoletano lì, il russo. Siamo senza speranza, Crucio, senza speranza. Punto primo, cazzo, parla in italiano, non si capisce un cazzo. Abisciare la capa, qua e là, la coscia, ma come cazzo parli? Parla in italiano, porca puttana. Dai ancora questo cazzo di dialetto, non si capisce un cazzo quando parli con un giornalista in dialetto, ma vaffanculo. Secondo, siamo senza speranza. Questo qui difende il figlio che va a fare una rapina. Terzo, giustifica la devastazione del pronto soccorso. Cazzo, c'è solo una risposta a questa cosa, come urlava il vecchio Borghezio. Quella cosa che ci ricorda tante battaglie, ci ricorda il futuro. Secessione! Allora, c'è da dire che il padre non ha giustificato, avrà tante colpe, pare anche un passato non troppo chiaro dal punto di vista delle rapine, no? Però il padre, bisogna dire che non ha giustificato l'assalto al pronto soccorso. Ma ci sono delle novità, ci sono delle cose da dire sulla vicenda di Napoli, caro David, ci sono delle cose molto interessanti da dire. Innanzitutto, molto probabilmente il quindicenne era reduce da un'altra rapina, è stato trovato un Rolex e una catenina. Bravo ragazzo, bisogna vedere. Il complice, che sostiene tra l'altro che il carabiniere non abbia detto sono un carabiniere, lì poi naturalmente ci saranno le indagini come dici tu, ha detto, pensa un po', che la rapina, cioè il Rolex o l'incasso serviva per andare a ballare. Si porta una pistola che poi tra l'altro non è manco una pistola a giocattolo. Che uno dice la pistola giocattolo, no amico mio, è la riproduzione in metallo di una pistola vera, pare una beretta. Ma chiaro, poi lui ha sentito anche il rumore dello scatto. Ma non è la pistola giocattolo come quelle che puoi trovare nei negozi per giocattoli. È la riproduzione in metallo di una pistola vera, cioè non puoi distinguerla, non la puoi distinguere. Cerca attenuanti per il giovane ragazzo criminale che poi è morto nello sparo del poliziotto, per mano del carabiniere. Nessuno giustifica il ragazzetto, nessuno. Si tratta semplicemente di dire che tra l'ex ministro dell'interno Salvini e Giuseppe Cruciani, che dicono io sto con il carabiniere, assolutamente, a prescindere da qualunque situazione di tempo, luogo e spazio, c'è niente, sappiamo poco. Ma come sappiamo poco? C'è chi come me invece dice non solo sto dalla parte della magistratura, ma benvenuta inchiesta, benvenuta inchiesta che verificherà la dinamica del fatto. Anziché dire io sto col carabiniere a prescindere, c'è un morto, giovane ragazzo, che voleva fare una rapina. Con pistola alla mano. E c'è un giovane carabiniere che per difendersi ha sparato. Ma questo lo sappiamo. In tutto non questo è che... non c'è io sto. No, ma è il tifo che tu fai. No, ma ragazzi, quello ma è sbagliato. No, ma io, è l'ultras. Ma io certo... Voi siete degli ultras. Ma no, ma perché non c'è siete una dei persona che è assalita e uno che è l'assalitore. Bisogna subito distinguere. Io sto con la persona che ma è stata presa bisogno. D'assalto. Sei tu che dici una questo banalità, ma nessuno è contro la persona presa d'assalto. Comunque, nessuno. Un'altra cosa di cui devo parlarti è che il padre, da un articolo che ho letto, poi te lo leggerò nei dettagli, pare che abbia dei precedenti, tra cui una rapina molto simile a quella fatta dal figlio. E l'assalto al pronto soccorso è stato organizzato sui social. Ti ho dato il quadro della situazione. Poi passiamo al professor Meluzzi. Ma perché? Ma così, Dumblè, a freddo, senza dirti nulla. Avvelenato sul coronavirus. Coronavirus, sbarchi, gli italiani, posti letto, vengono lasciati nella merda, ma iniziamo da qui. Io faccio un solo ragionamento. Ma che razza di paese, un paese come l'Italia, che ha investito 10 miliardi di euro in barconi e immigrazioni e ci ha lasciato con 5.400 lettini di rianimazione quando oggi ce ne vorrebbero 10 volte tanto. È un paese impazzito, è un paese pazzo, palesemente pazzo. Dice Meluzzi, abbiamo dato un sacco di soldi per l'immigrazione ed abbiamo tagliato posti letto. Questa è la sostanza delle cose che dice il signor Meluzzi. Io non lo so se sia vero o no, comunque è un fatto. Sono stati tagliati per motivi di budget posti letto negli ospedali, sostiene il professor Meluzzi, il Pope Meluzzi come diresti tu, sì. E nello stesso tempo sono stati investiti dei denari per far arrivare, per accogliere gli immigrati. Tu dici sono cose diverse. Sono però, cose totalmente diverse. Sarebbe come dire, abbiamo pagato l'istruzione a Meluzzi, guarda i risultati. Sono capitoli di spesa diversi. Noi abbiamo pagato l'istruzione a Meluzzi, perché lui ha fatto le scuole pubbliche, sì. Quindi l'abbiamo pagata noi. Guarda sì. Che cazzo di risultati ci sono. È un ragionamento che è parallelo a quello quindi di Meluzzi. Poi nello stesso tempo non abbiamo i posti negli ospedali. Esattamente. Abbiamo pagato per l'istruzione. Vai, no, io ho i miei genitori hanno pagato per far studiare quello lì. Senti Meluzzi, soldi buttati. Questo ti costerà una querela. Ma magari fosse. Ed è un paese palesemente pazzo che tra poco il professore virologo che avete lì sarà d'accordo con me. Appena avremo gli ospedali sommersi di sindromi respiratorie per i quali non ci sarà i lettini, qualcuno chiederà conto di come sono stati spesi 10 miliardi di euro lasciando gli italiani oggi nella merda. Questo è il vero problema. Sai che in questo momento, siccome la propaganda, tra virgolette, politica, come dico io, di Salvini su queste cose funziona poco, in realtà funziona meglio quella di Meluzzi. Perché Salvini dovrebbe utilizzare questo argomento. Diamo un piccolo consiglio al team Morisi. Sì, ecco, un piccolo consiglio. Cioè, anche lui ingaggiate ha dei freni, Meluzzi, evidentemente. Ingaggiate Meluzzi. Ingaggiate Meluzzi perché è tra i cosiddetti intellettuali della destra sovranista. L'unico argomento da utilizzare per Salvini è questo qua, secondo me. Cioè, avete lasciato gli italiani nella merda. Come dice Meluzzi, perché avete tagliato i posti letto. Guarda che lo fate, vedi. Ma io lo faccio, a me non me ne frega un cazzo. Lo fate. Più rianimazioni, meno barconi, Meluzzi, scatenato. Ho visto financo su quei gammoni degli africani e dei nigeriani che fanno 5.000 chilometri dall'Africa per passare attraverso quella che sembra una buona porta per arrivare nelle braccia delle vostre cooperative, che si sono puppate 10 miliardi di euro e che non sono state date a quello che serve alla sanità degli italiani. Quindi noi vogliamo più rianimazioni e meno barconi e ci batteremo per questo, più rianimazioni e meno barconi. Allora. Senti questo, poi togliere i 35 euro al giorno per comprare posti letto negli ospedali. Meluzzi all'attacco! Io ho una proposta semplice. E qual è? Per disincentivare gli arrivi c'è una misura semplicissima. Siccome vengono investiti alcuni miliardi all'anno di euro in cooperative sociali, in cui stazionano in alberghi di quarta a 4 a 5 stelle, migranti a 35 euro al giorno, cominciamo a ridurre a un decimo quel bilancio e utilizziamolo per comprare 50.000 letti da rianimazione che saranno tra poco indispensabili. Questa è una proposta concreta. Sì, fermi, non la prendi. Forza, Nobili. Antonio da Napoli, vai, che Antonio idiozia, da Napoli. Che idiozia vergognosa. Che idiozia. Vai, Antonio, dimmi. Il sangue al cervello. Dimmi, Antonio, dimmi. Ciao, buonasera. Senti, io ieri sera ho assistito a una conversazione che avete fatto in macchina. Ieri in macchina stavo. In macchina, noi eravamo qui. Comunque, sì. No, io stavo in macchina. Sì, quindi, tornando a casa, ho assistito a questa conversazione di un signore di Salerno che diceva. Che il carabiniere lui l'ha pigliato, l'ha fatta, l'ha ritto. Sì, il signor di Salerno che era palesemente contro il carabiniere perché. Allora, io vorrei dire semplicemente due cose, poi vi saluto. Dimmi Antonio, vai tranquillo, dimmi. Umanamente mi può dispiacere perché è un ragazzino di 15 anni. Ma chi è che non dispiace? Che uno di 15 anni muore, però è talmente lontano da noi. Le parlo umanamente, però dico io, se io mio figlio ha 15 anni. Per me alle 3 di notte deve stare nel letto a dormire. Ma Antonio, ma purtroppo tu hai perfettamente ragione. Quella situazione lì è una situazione particolare. Il padre è una situazione sostanzialmente di criminalità. Diciamo la verità. La conosco bene la situazione. Il padre è diviso, ci hanno 4 figli. Lui vive in una parte, la moglie da un'altra. Sì, parte, ma lascia perdere un sacco di gente separata. Non è che i figli dei separati vanno a rapinare le rapine. E dare torto al carabiniere che alle 3 di notte si vede puntare una pistola che sia finta, che sia vera. In faccia quando il carabiniere si è qualificato a dire io sono un carabiniere. Questo è la versione del carabiniere che si è qualificato, Ok, va bene. Io ci credo che si sia qualificato anche, perché credo alla versione di un pubblico ufficiale fino a prova contraria. Poi se è falso, non ci sono prove. Il compagno, il collega, diciamo il collega di rapine del quindicenne morto, che ha credo 17 anni, dice che il carabiniere per esempio non si è qualificato. Comunque, Antonio, hai ragione. A 15 anni uno alle 3 di notte non deve girare, soprattutto con una pistola, diciamo, di metallo. Leone da Bologna, vai veloce Leone, dimmi. Leone? Eccomi. Dimmi. Allora, volevo fare solo una semplice riflessione. Cioè, dal momento che un individuo si trova in uno scontro a fuoco, non può andare a pensare che la controparte sia un ragazzino di 15 anni o che fosse disarmato, che non potesse fargli del male. Dal momento che uno... Ma che ne sai tu di chi ti viene addosso, amico mio? Ma certo, ma è per questo che io dico sto col carabiniere, perché non sai cosa ti viene addosso. Ma non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla. Uno ti punta la pistola, e poi uno deve essere freddo. Il carabiniere, tu devi stare con lo Stato, c'è uno con la giustizia. Cioè, quello è lo Stato, il carabiniere. Uno dice, ma in quel momento... Non dite che il carabiniere è indagato per omicidio volontario, figlio di puttana, mi scrive un signore napoletano. Amico mio, l'abbiamo già detto, certo che è indagato per omicidio volontario. Allora, fermi tutti. La zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta. Io è l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda, Donald Trump. All'abbiato, guarda di mia collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia, Donald Trump. Mamma mia. Io così a fine anno non ci arrivo. A Napoli! Eccoci. Grande Max. Ciao Rocco. A mio discapito, capito? Cazzo, Crucio, almeno la zia parla italiano, porca puttana. Ma anche te nella vita, se ti trovi senza soldi, potrai fare qualche reato. Capisci che questa è la mentalità? Non usciremo mai. Quel posto lì è una fogna. Poi lascia che Parenzo vada a comprare i vestiti del cazzo e quelle troiate lì, ma quel posto lì è una fogna. Hopeless. Neanche il Mossad ce la fa, se lo mangiano vivo il Mossad, quelli lì, capisci, Crucio? Se lo mangiano vivo, non serve a un cazzo. Mamma mia, Crucia, io ti voglio bene, sei una persona che stimo, spesso mi trovo d'accordo con te, però sei proprio, cioè, come cazzo fai a dare ragione al carabiniere? Ma quelli sono addestrati, sono addestrati a averci una pistola, ma tu poi spara in testa al torace un ragazzino di 15 anni. Bah, io non lo so, guarda, io mi auguro che tu lo faccia apposta, perché non voglio credere che tu sei veramente così imbecille. Io ho chiamato riguardo il fatto del carabiniere. Io sono una persona che ho 50 anni e precedente non ne ho. Se era successo a mio figlio, io al carabiniere lo accoppavo. Gli facevo la fine che ha fatto il ragazzo. Se era mio figlio. Intanto il bravo ragazzo quindicenne aveva in tasca già altri, un orologio e qualche altra cosa, quindi proveniva già da un'altra rapina. Quindi bravo ragazzo, un par di coglioni. Allora, e poi uno deve credere agli scienziati, caro Davide. Allora ti faccio due esempi. Alla scienza, no, poi. No, dico, uno deve credere agli scienziati, ma ci sono diverse correnti di pensiero anche tra questi. È vero che siamo in presenza di un qualcosa di eccezionale, per carità. Però si dividono anche loro. Ti faccio un piccolissimo esempio. Leggo oggi su un quotidiano italiano, non ricordo adesso, un piccolo stralcio, però un piccolo estratto, come si direbbe in gergo, no? Come si dice in gergo, del presidente della Società Italiana di Virologia. Dunque, il capo dei virologi in teoria, no? Sì. Domanda: senza l'errore iniziale della chiusura dei voli, ci troveremmo nella stessa situazione? Risponde il signore: penso di sì. Un virus che si trasmette tramite le goccioline non si trattiene con i voli e i controlli negli aeroporti. Bah. L'unica è limitare la socialità, dice. E le dico di più, la mascherina non è inutile, soprattutto per i malati e i medici, ma anche per chi va in luoghi affollati. Abbiamo passato le scorse settimane a dire, anzi, il consulente del governo dice che è stato un errore limitare i voli, cioè proibire i voli diretti perché non si è controllato gli altri che arrivavano. E cioè non siamo riusciti a tracciare gli altri che arrivavano. Arriva il presidente della Società Italiana di Virologia a dire esattamente il contrario. Ma ti posso dire una cosa? Scusa, qualcuno sostiene che la mascherina è sostanzialmente inutile, tranne che in casi particolari. Sì, va bene, arriva il presidente della Società Italiana di Virologia che dice che invece è utile anche per chi va in luoghi affollati. Tu dimmi se è una cosa normale o una cosa La cosa che dovremmo tenere presente, oltre a fare gran casino, come fai a confondere le acque, ma che confondo, è quello di dire che gli scienziati stessi te lo stanno dicendo, che ogni giorno che passa capiscono qualcosina in più di questo coronavirus e degli effetti. Poi c'è un infettivologo che si chiama Greco, perché si chiama scienza. Aspetta. Non Meluzzi, si chiama scienza. C'è un infettivologo, che si chiama Greco, credo napoletano, il quale dice che un banale virus respiratorio si contrae e si guarisce. Cioè senti anche questo. È quello che invece si è venuto a creare una pandemia di paura, cioè la paura dell'ignoto. Qua adesso poi si sono chiarite le cose, l'ignoto non è più ignoto, abbiamo capito che è un banale virus respiratorio che nella maggior parte dei casi si contrae senza neanche averne i sintomi e si guarisce sempre e si acquisisce un'immunità. Non è la peste, sanificare non serve a nulla, tra l'altro quei sindaci o quelle persone che hanno sanificato. Leggo oggi di altri luoghi, adesso non ricordo cosa, sanificati. A Milano, al Tribunale di Milano, c'è stata la sanificazione. La sanificazione andrebbe dice sanificata costui, a casa tua. Casa tua andrebbe sanificata, ma a prescindere dal coronavirus. No, è un posto darsi, dove putrido, sai perché tu non sì. ti prendi niente? Perché tu sei pieno di germi, tu sei un germe vivente. Dentro quella casa viaggiano, prosperano, vivono, si riproducono germi. Devo dirti che Eleonora ha contro Meluzzi il messaggio del professor Viale, nostro amico della Zanzara, no? conosci sì, grande sì. medico del Sant'Anna di Torino. Che dice? Mi scrive personalmente. Sì. Meluzzi delira. Nessuna persona sana decuplicherebbe i letti di rianimazione, al di là del fatto che non ci sarebbe il personale, sarebbe uno spreco senza precedenti. Un buon investimento sarebbe invece quello di mettere sul lettino della psichiatra Meluzzi. Sì, grande scontro Viale Meluzzi. Dice: dovremmo un buon investimento un sarebbe scontro. Un letto in psichiatria per Meluzzi, dice l'ottimo Viale. Io come dire, lui stesso ha detto una volta, ha detto posso essere ma per me è un grandissimo, perché è uno che ha fatto più aborti in Italia comunque, di chiunque altro, il grande dottor Viale, che dando è un servizio, recando un servizio se a chi voleva abortire. Se tutti fossero medici abortisti non ci sarebbe ma un servizio. Ma io, come sai, abolirei l'obiezione di coscienza, fosse per me, per cui sai, comunque, sei medico, la legge dice che devi far abortire, Meluzzi fai abortire, chiusa parentesi. Delira. Meluzzi è l'opinione di Viale. Un buon investimento sarebbe un lettino in psichiatria per Meluzzi. Senti, la sanificazione che stanno facendo, dice questo signore infettivologo, non serve assolutamente a nulla. Io sono convinto, ti stavo dicendo che a casa mia è stato acquistato acquistato un sanificatore con un rumore terribile che fa, dice che sanifica l'aria, tua. Rende salubre l'aria, non so, tua. Sì, è stato la acquistato, tua compagna. Ha acquistato, sì, la l'ha tua acquistato. Fidanzata. Assolutamente, a spese la mia. Tua, no, ma dimmi la parola, la fidanzata, tua certamente, fidanzata. Ma a spese mia ha acquistato un sanificatore, a spese vostre, roba, casa vostra. No, casa mia, un sanificatore, no, i soldi dire? Miei, con i soldi miei ha acquistato. Ma quando uno vive insieme non c'è mio tuo. Ma io ero contrario ad acquistare questa roba qui, di sanificazione, ma che non serve spilorcio a un cazzo, sei. Non serve ma a un cazzo. Ma che schifoso spilorcio oh, sei. Puttana, quando guarda. Due persone vivono insieme, tutto ma io sono tutti. Contrario a questa roba qua. Non tu volevo comprare una cosa che fa un rumore. La tua carta di ma credito culo, dovresti va. Darle. Ma assolutamente. Tutto. Senti. Il virus non è un ratto che si deve sanificare. Non c'entra niente, c'è la sanificazione, non serve niente, è una stupidaggine, una balordaggine mai vista. Chiudere le scuole per sanificare non ha nessun significato se non quello di aumentare le persone, la percezione che ci troviamo di fronte alla peste bubonica. Non è vero, cercate di chiarire queste cose, perché secondo loro se sanificano la scuola, se uno c'ha il coronavirus, entra in scuola, sanificate, muore il coronavirus, ma non ha proprio nessun senso. Eccoci, Francesco, provincia di Matera, vai, anzi Antonio da Napoli, va, restiamo a Napoli, Francesco, un attimo solo, Antonio, dimmi. Dimmi, Antonio, dimmi, Antonio, dimmi. Ciao, buonasera. Dimmi, Antonio, dimmi. E niente, tu niente. Sei il solito paraculo. In che senso, scusa, dimmi. In che senso, a riguardo dello spot dell'emittente francese. Perché? Perché? Ti sei divertito, ti ha divertito, poiché ma si sì. trattava di uno spot che come protagonista aveva la pizza. Ed è sempre la solita occasione per denigrare noi napoletani. Che c'entra? Ma tu sei pazzo? Io ho parlato è il simbolo dell'Italia. È l'Italia, che non c'entra nulla. Ma che denigrare, no, che cosa? No, no. Se ma tu sei malato di mente. Tu sei un pazzo scatenato. Sei un pazzo scatenato. Questa è la ragione. E che c'entra? Non fai altro che denigrare noi napoletani. Allora, sei masochista. La polenta, la cosa di sarebbe. Ma figurati, a me piace molto più la pizza. Io sono malato di pizza, sono quasi dipendente dalla pizza. Me ne mangerei tre al giorno di pizza. Il problema non è questo. È uno spot, che non è uno spot, peraltro, è un video satirico. Sì. Che facciamo risentire magari adesso fra qualche istante di una Napoli, televisione francese che poi ha deciso che di cancellarlo di Napoli, non, c'è, non è che tutto è questo è Napoli centrico, non è tutto non viene tutto da Napoli, la pizza è un prodotto italiano, c'è okay, questa ma è riconducibile ma a non Napoli. È vero, non c'entra non te l'ha detto, guarda, non mi sarei indignato in nessun caso, a me quando c'è la satira sentiamo, quando c'è la satira. Cette émission vous est présentée par la pizza Corona. Questa trasmissione è presentata dalla pizza Corona. La pizza Iolo. La nuova pizza italiana che va a fare il tour du monde. La nuova pizza italiana che fa il giro del mondo. Uno scatarra e sputa dentro la pizza. Questo è nulla di grave, okay, niente perfetto. Di grave. Ma Napoli io... non c'entra. Gianmarco sempre da Napoli, anzi Francesco provincia di Matera. Vai, Francesco. Buonasera. Dimmi. Senta, io vorrei commentare la vicenda del carabiniere. Sì, dimmi. Praticamente vai. Oggi ero nello spogliatoio dove vado in palestra e tutti a commentare contro questo ragazzo che contro contro ha detto, avranno detto se l'è cercata, che è quello che penso anch'io, amico sì, mio. Se tu vai a rubare sì, con una pistola sì, o con una simil pistola, mi fa di parlare. Dimmi, allora Francesco. Il discorso è questo. Non si parla mai di tante coppie sposate con due stipendi che divorziano solo per non pagare le tasse. Ma per che c'entra? Scusa. Due case. Ma cosa c'entra? No, ma questo si sa, ma cosa c'entra? Quello è un crimine. È un crimine? Ma cosa c'entra? Sarà un reato? Sarà una, no, sarà una truffa nei confronti della pubblica amministrazione? Quello è una rapina. Ma cosa? Scusami, certo che è una rapina, ma è una rapina non a mano armata, è una truffa sì, nei confronti dello Stato, rincoglionito. Quelli che giudicano. Ma no, ma lascia perdere. Allora, caro Francesco, scusa, posso dirti una cosa? Allora, una cosa è che uno fa una truffa ai danni dello Stato e vabbè, poi la truffa... magari non è rapina quella? Ma è una rapina, sì, ma rapina tra virgolette, cioè... è metaforicamente una rapina, certo, truffi allo Stato, dunque rubi dei soldi allo Stato, ma non è come andare in giro a puntare una pistola sì, a uno che non c'entra un cazzo. Quelli che accusano, ma non lo ragazzi, so chi lo fa, può darsi chi lo fa e magari ha la coscienza sporca, sicuramente ci sono dei sepolcri imbiancati oppure ci sono delle persone che accusano e poi devono vedere meglio in casa loro, su questo non c'è dubbio, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Io perché in Italia dovrebbero tutti guardarsi la trave. Sì, prima però, Ma Francesco, non c'entra niente, posso dirti, non c'entra nulla. Certamente c'è qualche accusatore di questo signore, di questo ragazzo, che ha dei problemi suoi e che attacca per motivi vari. Ma non c'entra assolutamente nulla, sono due discorsi diversi. Fermola. La zanzara. Che parlate? Voi state bestemmiando! Ho capito, ho sbagliato. State bestemmiando. Magari, ma abbiamo... Non una volta, infinite volte. E fa ridere quelli attorno a te. E mi meravigli di magari abbiamo sbagliato a parlare. Mi meravigli di voi. Magari abbiamo sbagliato a parlare. Non si deve bestemmiare. Non so. Hai capito? Speriamo che mi senta tua moglie. Romina! Se te ne dormi, vattene a fangolo a dormire, che mo mi si incazza veramente, non Romina. Signor Dave Blasco. Tu devi finire di scassarti la minchia. Complimenti. Il giocatore è in ospedale, è alla frattura e lei non ha fatto nulla. Caucci, noi siamo di Serie A, Caucci! Vai a fare il culo, è tuo fratello! Ma secondo voi dico una cazzata se penso che il carabiniere poteva tranquillamente dargli l'orologio e finiva lì? Nel senso, a me... Se mi fermano per una rapina, io alzo le mani e gli do il portafogli. Se c'è una pistola faccio pure finta di niente. Cioè, nel senso... Boh. Tra l'altro voglio segnalare a quelli indignati con la Francia che quella trasmissione satirica su Canal Plus, basta andare a consultare il sito internet di questa trasmissione, si chiama Grolin, meno credo che sia corretta la pronuncia, ospita anche diversi video che prendono per il culo la Francia su alcuni tic francesi, su alcune cose francesi, cioè non è che sono specializzati nel fare satira contro l'Italia, cosa che sarebbe anche consentita. Cioè, da noi è pieno di trasmissioni che pigliano per il culo, di cose su internet che pigliano per il culo, i tedeschi, i spagnoli, i francesi, gli inglesi, i bulgari, i romeni, i rom, eccetera. Pieno. È apparsa una scritta sui muri di Santa Lucia, che è il quartiere dove è avvenuto l'uccisione, dove è stato ucciso il ragazzo di 15 anni per una rapina. Ugo vive, sei la nostra vita, ti voglio bene, cugino, eccetera, eccetera. Vabbè, forse è il quartiere in realtà di residenza della famiglia. Questo non mi stupisce. Vivi nel mio cuore, cugino mio, non dimenticherò mai ogni momento passato insieme, una delle foto affisse, sei l'angelo più bello del paradiso, resti sempre il mio amore, con vari parenti. E che nelle televisioni locali, tramite l'internet, tramite Facebook, continuano a sostenere: era un bravo ragazzo. A me questa cosa mi fa impazzire. Era un bravo ragazzo, perché poi i parametri per giudicare bravo ragazzo, cattivo ragazzo, come è noto, sono piuttosto vari, no? Sono vari e vasti e ampi i criteri per giudicare qualcuno un bravo ragazzo o meno. Spatalino. Ci manca sempre Spatalino. Vai. Stare a un metro e mezzo qua, sopra, sotto, ma vergognatevi! Io continuo a vivere! Stringo le mani, faccio il bacio, bacio gli amici, me ne frego! Usare i disinfettanti, ma vergognatevi! Siate seri! Abbiamo capito che non vuole adeguarsi alle norme sanitarie consigliate, no? I consigli che danno tutti praticamente, anche in questa azienda. Noi dobbiamo anche andare a trasmettere signor la sua Spatalino, trasmissione da signor Spatalino. Può venire anche a Milano a trasmettere per me. La cosa sul metro però non è del tutto sbagliata adesso di Spatalone. Cioè siamo in alcuni casi anche a ridicolo. I medici danno delle precauzioni. Sì, però amico mio, chi è che multa? Voglio vedere se c'è una multa di qualcuno di qua qualche locale, perché magari non ha detto ai clienti di mettersi un metro a distanza di un metro l'uno dall'altro. Ha normalmente, se un tuo amico ma che vanno dice, col metro? Che vanno col metro? Ma no, è il buon senso. Vigili, dai. Se un tuo amico ti dice ho l'influenza, Giuseppe, tu non è che lo abbracci, gli stai un po' lontano, non ti fai starnutire in faccia. No, ma è assurdo. Sono che ci siano precauzioni dentro le ordinanze, poi da qui dalle ordinanze dicono poi si passa le multe, no? A due metri devi stare a due metri di distanza, è normale quello. Dai, su. Altra incursione di Michele Caruso oggi a Tagadà, no, amico mio. Gravissimo. Altra per me incursione andrebbe di Michele Caruso. Tagadà fa servizio pubblico, quindi è come fosse interruzione di servizio pubblico. Servizio pubblico. La 7 fa servizio pubblico. C'è una linea diretta senza con un infettivologo. La 7 fa servizio pubblico. Adesso non fare lo spot alla 7, dai, ma lo su. Dico senza conflitto di interessi. Ma c'è un conflitto di interessi chiaro. È come se io dicessi che questa qua è la radio più straordinaria del mondo. Sì, non lo dico perché sembra ridicolo, no? Una delle. Ma sembra ridicolo. Posso dire al limite che la trasmissione. Nel merito, sulla 7 si può dire, perché lì c'è questo infettivologo che risponde alle chiamate. Oggi è cambiato, c'era Pregliasco oggi. Comunque, ma senti in quale che è successo? Alta trasmissione nazionale tu hai la possibilità di parlare aprire i microfoni per dire alla gente ti esponi a Michele Caruso. Per cui già il fatto che Michele Caruso reato? Che cazzo di filtro fanno alla 7? Riusciamo a farlo meglio noi? Uno che pure, potrebbe dire, no, uno che pure potrebbe dire che razza di filtro. Anche noi uno ai potrebbe ciotroni. Dire cosa fa Michele Caruso tutto il giorno. Questo questa anche è l'altra vero, cosa che qualcuno potrebbe vero, tu invece questo... sembra la cosa sbagliata. No, ma voglio dire, facessero un film, che fai? Grugnisci, che fai? No, catarro. Sono... Ma che è il catarro? Ma che roba adesso, è? Ma sei come quello del pizzaiolo del video di Canal catarro, Plus? Ho letto la policy aziendale, domani non posso più venire. C'è la policy aziendale che dice che se tu hai un po' di tosse, un po' di catarro. Ma no, non hai la tosse, non dire cazzata, non fai domani non posso. Mi spiace, non c'è la zanzara. Ma ragazzi, questi sono i tuoi figli che ti attaccano qualsiasi cosa. Sì, dai. Questo è vero. Eccoci, prego Luciano. Buon pomeriggio a lei, vorrei porre il quesito in merito al coronavirus al professor Pagliasco, è possibile? Certo, certo. E vuoi sapere se all'aria aperta la mascherina serva per poter non far fissare il virus, se possa essere sufficiente, oppure se servono altri accorgimenti e se occorra di più a non trasmetterlo o a non infettarsi. In quanto sono Michele Caruso, Tomari, vaffanculo, vabbè, questo è il solito simpaticone, dopodiché va bene, sì, ogni tanto insomma c'è un simpaticone. Sono Michele Caruso, Somari. Somari morite. Poi ha aggiunto qualcosa che non ho sentito. Chi è che ha sentito? C'è una parola. In quanto sono Michele Caruso, Somari, vaffanculo. Vabbè, questo è il solito simpaticone. Dopodiché va bene. Sì, ogni tanto c'è un simpaticone. Fammi risentire un attimo, vediamo se riusciamo a sentirlo bene. Concentriamoci. In quanto sono Michele Caruso, Somari, vaffanculo. Vabbè, questo è il solito simpaticone. Dopodiché va bene. Sì, ogni tanto c'è un simpaticone. Siete idioti, forse. Siete idioti. Dovremmo chiederglielo prima o poi a Caruso, così come per completare, come dire, l'esegesi carusiana. Comunque, poi, io dico... carissimo Parenzo, che è un omosessuale represso e frustrato. Che diffamazione. Allora, Paolo da Udine, vai Paolo, Paolo. Ah, vi devo parlare di Lecce, di un paese in provincia di Lecce dove succede una cosa incredibile, ma ne parleremo più avanti. Ve lo accenno subito, ve lo anticipo. Praticamente ci hanno mandato dei WhatsApp che stanno circolando in tutta Italia, dove mettono alla gogna un povero parrucchiere che è stato l'unico, che è l'unico contagiato di questo piccolo paese in provincia di Lecce, e che viene bersagliato di messaggi come se fosse l'untore. L'untore, un parrucchiere in provincia di Lecce. È una cosa molto divertente. Da un certo punto di vista, lui non è molto divertito, naturalmente, da questa roba qui. Vai, Paolo, dimmi. È ricoverato questo, tra l'altro. Paolo. Ecco. Dimmi, no. Paolo. Ascolta, Zai ha detto una gran cagata, Ma quale? Quella sui cinesi, Paolo? Non si sente un cazzo, però, amico mio, togli via voce l'auricolare o quello che. Non lo so. È una zona dove non si prende, allora. Non so. È una zona di guerra. Lo so, amico mio. Poco, richiamiamo Romina da Napoli. Romina da Napoli, richiamiamo Paolo. Mi senti? Sì, Romina, dimmi. Romina. Sì, ciao. Senti, allora te lo dico molto brevemente: su YouTube c'è questo video girato chiaramente da un cellulare dalle degenze del vecchio Pellegrini. In cui si vede il transito di queste circa 50 persone che entrano dal pronto soccorso e qualcosa come in media, io le ho contate dal video. 10 pattuglie della polizia, per cui se ogni pattuglia vuole tenere due poliziotti, ci sarebbero circa 20 poliziotti lì. Io vorrei capire, i poliziotti, cioè tu stai parlando, scusami Romina, tu stai parlando del momento in cui è stato preso d'assalto il pronto soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli. Esattamente, guardati lo spettacolo, cioè tu, sì, non lo so, questo video lo andrò a consultare. Tu stai dicendo che la polizia ha assistito passivamente all'assalto al pronto soccorso, perché tu non puoi lì dal video non vedi. Ma che poi, cosa fanno, cosa fa, che cosa fa, che, scusa, ci sono le 10 pattuglie, questo è sicuro, perché le ma puoi anche contare. Ma che ci stavano a fare 10 pattuglie della polizia lì? Sono successe le tarantelle lì dentro, chiaramente hanno chiamato la polizia. Ho capito, allora dopo, allora dopo sono arrivati i poliziotti, non... No. Cioè tu dici il fatto che hanno portato... Ci sono le pattuglie ferme dentro al pronto soccorso. Sì. Ascoltami, sono le pattuglie ferme dentro al pronto soccorso. Ma tu lavori lì al pronto soccorso? No, io lavoro in ospedale, non lavoro a Vecchio Pellegrini, partiamo da questo. Ma non è questo il concetto, però perché lo capirebbe anche chi fa l'avvocato, che tu vedi che ci sono tutte queste pattuglie lì dentro, quindi ci sono anche i poliziotti, e la gente che in maniera molto, diciamo... tranquilla inizia ad entrare nel pronto soccorso. Sì. Voglio dire, se questi pure non ti fanno il casino, no? Tu non li fai entrare 50 persone in un pronto soccorso. Quindi diciamo, la gente è di merda perché c'è la gente di merda. Però pure i poliziotti non hanno saputo gestire una cosa. Ma perché secondo me non è rappresentante della Romina. Allora io secondo me posso sono entrati dirti alla chetichella. Sì, esatto. Allora, no, voglia, cioè, ragazzi, ma per piacere, guardate, no, Romina, veramente. Io per carità, adesso vado a vedere questo video che dici tu, dov'è che si trova esattamente su YouTube. No, io l'ho visto perché. Qual è il titolo? Qual è il titolo? Non te lo so dire perché l'ho guardato oggi pomeriggio, però fa vedere proprio tutta questa gente, ma lo trovi al 100%. Sì, scusami, però, Romina. C'è una donna che grida e dice: avreste dovuto tutelare, tu che sei un uomo dello Stato, invece ci sono mio nipote, queste cose così. Però chi è di Napoli lo sa come funziona. Ma la cosa più sconcertante per me, ho detto: guarda là, niente di meno, ci stanno circa 10 pattuglie della polizia e è successo tutto questo. Cioè non è che ci stavano gli infermieri. Sì, però Romina, io posso avere dei dubbi sul fatto che i poliziotti assistono 10, 20, quanti siano. Ma assistono, ma non hanno saputo gestire. Beh, ho capito, ma se entrano delle persone 40, 50, adesso non so quanti fossero, 20, 30, a sfasciare tutto il pronto soccorso, tu pensi che i carabinieri o i poliziotti in questo caso sono fermi lì a far distruggere il pronto soccorso a queste 10, 20 persone? Dubito, però magari può essere. Ma è chiaro che la gente, scusami, ma è chiaro che la gente prende il sopravvento se vede la polizia che non riesce a gestire una situazione. È chiaro questo, chi vive in questa città lo sa molto bene. Ma questo cosa c'entra? Scusa, un poliziotto, un poliziotto adesso mi sta scrivendo. Come fa un poliziotto a fermare? Scusi, cara. Se 40 persone vogliono entrare dentro un pronto soccorso, i poliziotti secondo me non dovrebbero farli entrare innanzitutto. Ma non è che sanno che vogliono spaccare tutto, però. Beh, insomma, la prima cosa devi dire: ragazzi, non potete entrare. Comunque, un poliziotto mi sta scrivendo, questa qua lo sa che cosa significa gestire l'ordine pubblico. Se i poliziotti entravano dentro. Va bene, perché lo so molto bene. Se i poliziotti, aspetta. Entravano dentro, sai cosa succedeva? Sì, ho capito, caro poliziotto, amico mio, però se tu vedi 20-30 malintenzionati che entrano dentro un pronto soccorso per sfasciare tutto, qualche cosa devi fare, sempre che sia vero, sempre che sia vero quello che dici tu. Ciao Romina, ciao. Vabbè, guardatevi il video. Ciao. Romina! E non è la Romina di quel vecchio video. Allora, il padre della vittima che abbiamo sentito ieri, c'è un audio nuovo, sentiamo. Io a mio figlio non gli posso insegnare il male, io gli insegno il bene a mio figlio. Ho altri tre figli, sempre bene gli insegno. Se li conoscete i miei figli, voi dite con il mio passato, se giudicate il passato, dite che questi figli non sono il figlio di questo bandito. Perché i miei figli sono educatissimi, sono angeli. Sì, amico mio, ma il problema è che tutti quanti quelli che vanno a fare le rapine probabilmente a casa si dimostrano degli angeli, sono persone che magari no, sì, ma è vero, ci sono dei rapinatori, magari aiutano gli anziani ad attraversare la strada. Può essere, certo. Cioè, è un classico, no? Aiutano il prossimo, magari danno dei soldi a quelli che hanno bisogno, che cazzo ne so, magari sono, sicuramente danno più soldi magari a un barbone di quanti l'abbia dato io in tutta la mia vita, ma quasi certamente. Non è molto difficile. Non sei utilmente paragonato. C'è anche la mamma che parla: nessuna colpa mia né di mio marito, mio figlio era un signore. Nessuna colpa di mio marito, di me. Io ho fatto tutto per i miei figli. Potete chiedere nei quartieri, fuori quartieri, a quegli altri quartieri di là. Tutti mi conoscono. Quello che facevo io e quello che ho fatto per i miei figli. Sempre a scuola, pulita e sistemata. sempre. Mio figlio non tenne un precedente, niente, è andato a vedere, niente, era un signore mio figlio. Con tutto il rispetto per la morte della madre, la morte di un figlio, a 15 anni avere dei precedenti, per carità, succede, però dice non aveva precedenti, ma a 15 anni, amica mia, a 15 anni. Comunque, io vorrei chiamare un signore che si chiama Pietro Ioia, che è il garante dei detenuti di Napoli, che spesso sentiamo e per un tempo è stato anche una specie di leader dei parcheggiatori abusivi. Questo signore con dei precedenti, eccetera, il quale ieri ha detto, beh, è colpa di tutti. No, amico mio, non è colpa di tutti. Pronto? Ioia? Sì. Ciao, sono Cruciani. Scusa. Come stai? Come stai? Bah. Sono stato poco bene, giusto? Che è successo? Il coronavirus, no? No, lo richiamo un collasso, non ho letto. Un collasso? Infarto. Addirittura? Infarto. Oh, mamma mia. Ma che ti hanno ricoverato, no? Due settimane fa, sì, sono ricoverato, sto in convalescenza ancora. Ma sei ancora in ospedale o stai a casa? No, sto a casa. Sono stato 10 giorni in ospedale, mi hanno fatto 4 stent. Mamma mia, e che... 4 stent. Cioè, hai avuto già qualche problema di cuore tu? No, mai, Crucio. Sei stato sempre bello, pulito, sistemato, mai ospedale, mai operazione. Non bevo vino, non bevo alcolici, non fumo. È una sfiga pazzesca. E che ne so, il passato forse, no? Manco nel passato, che ne so. Ma no. Può essere, roba del passato, sì. Lei non ha mai votato Lega, vero? Ma che c'è? No, quello può essere un fattore di rischio. Potrebbe essere un fattore. La verità no, La verità no. Ah, ok. Senti, neanche Fratelli d'Italia, magari. Ma che c'è? No, cerco di capire, perché può essere un fattore di rischio, hanno detto. Però non lo so. Scusami. No, ma lo dico senza nessuna... Pietro, scusami, ma nei giorni scorsi tu, quando è successo questa cosa, anzi ieri o l'altro ieri, quando è successa sta cosa del carabiniere che ha sparato al rapinatore, al ragazzo, là di 17 anni, e hai detto che abbiamo perso tutti, ma in realtà no, non è che siamo tutti responsabili. La prima responsabilità è forse della famiglia di questo ragazzo di 17 anni e direttamente di questo qua che va a fare una rapina con una pistola finta. Sì, indubbiamente, Cruciale, indubbiamente, questo sì, ma quando un ragazzo non può andare più a scuola, perché non si affacciano gli assistenti sociali? Perché non lo vanno a aprire? Perché non vanno a aprire? Perché non chi sta bello e buono non è chiuso più a scuola? Tu dici, se uno non va a scuola... Comune, stanno. Sì, ho stanno capito. Coppie comune, quando ne vuoi ci sono gli assistenti sociali. Senti, ma tu stai... Cosa? Siccome c'è un hashtag che è girato, io sto col carabiniere, no? Tu da che parte stai in questa vicenda? Ma guarda, io ti dico la verità, per me due sono le vittime, il carabiniere e il ragazzo. Sono tutti e due le vittime. Non mi sento di stare dalla parte sia del carabiniere sia del ragazzo. Ho capito, però che il carabiniere è stato assalito, cioè il carabiniere ha subito la rapina, ha reagito, sì. Adesso tu pensi che abbia reagito, come dice il padre del ragazzo, in maniera eccessiva, che non doveva sparare più colpi, eccetera, ci voleva più freddezza? Vabbè, come dicono i carte dei giudici, insomma è stata un po' eccessiva il giovane carabiniere. Dici? Omicidio volontario, ci andate, insomma. Sì, vabbè, quello che c'è, quella è l'ipotesi di reato, naturalmente. Cioè, secondo te si poteva fermare? Sì, il primo colpo al petto si poteva fermare, secondo me. È la stessa cosa che dice il padre con cui ho un po' discusso ieri, ma ho capito, però come fai in quei momenti a essere così freddo? C'era anche la fidanzata, cioè, nella versione del carabiniere che oggettivamente si doveva difendere. Crucia, però io voglio dire una cosa, no? Noi sappiamo com'è la cittina. Insomma, cammina con un Rolex in coppuraccia. Insomma, sai che più o meno puoi subire una rapina. Tu sei carabiniere, per via sapessi cose. Cioè, tu dici, non si gira con Rolex sul braccio. A Napoli non ci cammino. Ti dico la verità. Sì, no, ma per carità, ma da questo punto di vista è vero. Io più volte l'ho detto, se c'hai il Rolex, non giri a Napoli con Rolex. Però adesso non è che si può dare la colpa. Non è che si può dare la colpa al carabiniere perché stava con Rolex in giro. No, la colpa al carabiniere no. La colpa al carabiniere no, questa no, però. Però tu dici con Rolex a Napoli non giri, questo è il punto fondamentale. Esatto. Ma che vuol dire? Io non giri. Tu, perché tu c'hai Rolex, Pietro, non capisco. No, non ce l'ho. Anch'io ce l'ho, ma che follia è? Che vuol dire? Napoli Rolex free, che vuol dire? Guarda che il sindaco ha fatto un'ordinanza proprio per i turisti. Sul Rolex. Il fatto di Rolex da anni. Lasciate il Rolex in albergo e mettete un orologio di plastica. A parte l'uccisione, eccetera, poi questi sono andati a assalti agli amici. amici, i parenti, pare anche i parenti sono andati a prendere d'assalto un pronto soccorso. Una cosa vergognosa. L'hanno sbagliato 100%. L'hanno sbagliato. Hanno sparato, pare una caserma dei carabinieri, non si sa chi ha sparato. Due volte là, due volte. Cioè c'è un consenso nei confronti di queste persone, hai capito qual è il problema? C'è un consenso. Ma c'è un consenso solo per l'età di un ragazzo. Ma no, perché ma tutto quanto nel cuor nostro sappiamo che il ragazzo ha sbagliato. Ma secondo te lui per l'età, perché guardiamo per 15 anni, porca miseria. No, 17, e non 15, si può morire così a 15 anni a Napoli. Ho capito, però l'ha voluta lui, andato a fare rapina lui, non è che sono andato io a fare rapina. Cioè, il padre pure pare che abbia dei precedenti. Capito? L'ambiente è quello là. Cioè, secondo te, per esempio, la pistola era meglio che la lasciava a casa, lui non era in servizio, era meglio che la lasciava a casa la pistola, il carabiniere? Per me sì. La pistola e l'orologio lasciava a casa. Cioè, come si fa a dire che uno deve lasciare a casa l'orologio, amico caro? Ma scusami. Napoli, sappiamo come è Napoli, no? Ma che roba è? Cambiamola. Tutti i torti non ha su questa cosa qua. Non è che è colpa del carabiniere, ma uno che c'ha il Rolex e conosce Napoli, non giri per Napoli con Rolex, ragazzi. Non è colpa, la colpa non c'entra niente. Però senza Rolex, probabilmente quello non si avvicinava. Ma figuriamo. Ciao Pietro, ti abbraccio. Ciao. Ciao. La zanzara. Pronto? Guarda, ma va a trappi angole, guarda, a te grindri dici, tu eri clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè. Si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. Piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. Una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. A giovano. Sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Voglio spezzare mezza lancia a favore di Parenzo quando dice che la zanzara ha un'influenza un po' così sulle persone. Cruciani mi hai rovinato. Ieri, fine allenamento in palestra, vado in bagno e per la prima volta nella mia vita guardo il lavandino e vedo che è dell'altezza giusta, vedo il gabinetto e provo un senso di esitazione, indecisione. Cioè, mi stava venendo da pisciare nel lavandino e temo che questa cosa prima o poi accadrà. Per noi è normale. Barisoni gay. Sì, pronto, parlo dalla redazione della Zanzara. Volevamo avvisarla che la tappa di Bari è stata annullata per causa coronavirus. Crucia, ma vaffanculo, vai! Comunque mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Cruciani, sono qua con il mio amico Gabriele, ti seguiamo da tanti anni e ci stavamo chiedendo, no? Se con il caso coronavirus hai iniziato finalmente a lavarti. Secondo me no. Secondo me Gabriele ha cominciato a lavarsi. Penso. No. Facci sapere se ti lavi o meno. Allora, sempre in quelle telefonate del servizio pubblico, come lo chiami tu, della 7 della trasmissione Tagadà, no? Che aprono le linee telefoniche, caro David, alla gente che vuole chiedere informazioni, con un virologo, un esperto, a un certo punto tu pensa della follia, a un certo punto interviene un tizio, un ascoltatore, c'era di fronte chi? Un professore, un tale Morrone, non so chi, un ascoltatore... Ascolta, roba incredibile, che è preoccupato del cane. del cane. Vabbè, che può prendere essere. Il coronavirus. Vabbè, anche questa è una paura. Ragazzi, se qualcuno mi dice, se qualcuno mi dice che ha paura per il cane che prende il coronavirus, mi incazzo sul serio. Questa volta mi incazzo sul serio. È uno della famiglia. Cioè, tu con questo casino che c'è nel mondo, in Italia, eccetera, ti preoccupi se il cane prende il coronavirus. Se tu hai un cane, ti preoccupi anche di quell'affetto familiare là. Ma questo mi sembra. Io dico, ragazzi, ma tu sei completamente, ormai ti sei bevuto il cervello a te. Ormai il cervello è completamente impregnato normale, dalle stronzate. Tu non sai cosa vuol dire avere un cane in una famiglia. Ma non è tutto sullo stesso piano. Ad esempio, non puoi... ti racconto questo. Io adesso a casa mia, sono arrivati, è arrivato un pesce rosso, perché mio figlio voleva il pesciolino rosso. Vabbè, ma il pesce... Ha passato la giornata di ieri dicendo, papà, ma il pesciolino rosso lì dentro, nell'acquarietto che ha... Sì, piccolo acquario. Piccolo acquario. Avrebbe speso 20 euro comunque. No, un acquarietto piccolo. Una bacinella piccolina. Dice, ma sta ma no, poi con no, l'acquario che mi hanno dato al ma chi 25 vabbè, allora... hanno dato questa. Dice, però è solo poverino. Pesce, sì. Non sta, cioè, papà capito. Dice, va bene, solo il pesciolino. Troveremo una. Dico, cosa vuoi che faccia col pesciolino? Non c'è solo. Compriamone un altro. E arriva il secondo pesciolino. Allora? E dice, beh, però in due pesciolino, sai cosa si dicono in due? E dico, allora compriamo il terzo pesciolino. Se sono mangiati tra di loro? Cioè, per mio figlio, no, per fortuna per ora no. Però per mio figlio, ogni mattina va a controllare che sia vivo. Ma cosa c'entra? Perché ovviamente per lui è un pezzo della. È importante il pesciolino rosso. Cioè, se dovesse morire, perché? Purtroppo accadrà. Lo speriamo che più ti tardi. Posso dire, ti posso dire una scoppierà cosa? Scoppierà una tragedia, noi abbiamo, ma è così. No, l'affetto abbiamo, degli animali, sì, è anche questo. Ormai hai il cervello completamente impregnato da queste minchiate. Posso dirti una cosa? Ci stavo pensando mentre tu mi raccontavi questa cosa del pesciolino rosso. La realtà è che noi siamo molto razzisti nei confronti degli animali. Cioè, la morte, per esempio, di un cane o di un gatto ci fa tremendamente più impressione, almeno no, perché non ce li ho, tremendamente più impressione rispetto a quella alla morte di un pesciolino rosso. Cioè, muore un pesciolino rosso che abbiamo in un acquario, sostanzialmente dipende, ce ne fottiamo. Dipende dai bambini, dipende. Sostanzialmente... Il primo pesciolino si chiama Giulio, l'altro si chiama Bibi, come Bibi Netanyahu, perché è arrivato oggi avendo vinto e quindi l'hanno chiamato Bibi. Ma che Bibi. C'entra? Scusa, no, il nome dei pesciolini si chiama Bibi, uno come Bibi Netanyahu. Chi, Bibi. Tuo, uno dei tuoi pesciolini si chiama pesciolini Bibi? Uno Giulio. Uno Giulio. Sarà contento lo chef Rubio. Sarà poi... contento lo chef Rubio. No, scusa, allora, mio figlio, il primo l'ha chiamato lui così, dico, come vuoi chiamarlo Giulio? Vabbè, chiamiamolo Giulio. Poi il secondo che è arrivato, ma papà, questo come lo chiamiamo? Come Netanyahu. Beh, lo chiamiamo Bibi. Bibi. Cioè, perché Bibi è Bibi. Ha vinto Bibi, le elezioni. Come Benjamin. Mamma mia, allucinante. Bibi, omaggio a Bibi. Ci abbiamo lo chef Rubio che gli sta sul cazzo Israele. È un'unica cosa che non ti ho fatto sentire. È stato denunciato ieri. Sì. È stato denunciato giustamente. Sì, vabbè, su che cosa? Sulla questione degli ebrei dell'olocausto, dici? Quella sì, roba là. Sì, sì, sì. Vabbè, sì, ma sì. Io sai che non amo i tribunali. Sì, non amo i tribunali. Più dicono follia, più ti piace. No, che mi chiaro, piace. A me chiaro, piace chiaro. Rubio? A me non piace Rubio. A me. Ieri l'ho attaccato in maniera. Cioè, piaceva a te, Rubio. Mai piaciuto. Bisogna dirlo ai tuoi amici. Mai piaceva a te, Rubio, quando attaccava Salvini, come no? Per diffamazione. E anche quando attaccava Salvini dicevo sempre una follia mai sentito, assoluta. Ma andiamo a ripescare. Chi mi segue perché posto dei gli articoli, posto dei libri, posto delle conferenze, posto dei video che purtroppo per che voi e per fortuna per il mondo adesso grazie ai media e ai social riescono a girare molto più velocemente e dimostrano quanta malafede c'è nella politica israeliana interna e vabbè, estera. Allora? Cioè io non è colpa mia se Israele nella politica, e non parlo degli israeliani, non parlo degli ebrei, ma parlo dei sionisti, fa schifo al cazzo, non è colpa mia. Grande analisi, la grande analisi del signor chef Rubio. Il signor chef Rubio. Però io vorrei fare una cosa, aspetta. Numero di telefono, vai, numero di telefono con grande tranquillità, vai. Vai, Roberto da Napoli intanto. Pronto? Dimmi Roberto, dimmi. Allora, vengo in pace, sono un cittadino italiano che crede nei valori della Repubblica, fondata diciamo sull'antifascismo del dopoguerra. Sono nato a Napoli. Sì, sembra strano. Questo. Soltanto ecco, no, per dire che per l'amor di Dio ci sono, non mi metto a fare mica l'aspetto ecco del vittimismo che tu vorresti che uno mettesse fuori. No, Roberto, scusa, mi stai parlando di cose abbastanza ovvie. Sono di Napoli, non sono un delinquente, non sono. Delle mille problematiche che esistono sulla città. E allora? Caro Cusani, siamo noi nelle problematiche che dobbiamo avere sulle spalle. Ciò non toglie che c'è tanta gente che sa perfettamente che queste sono le realtà delle metropoli in territori, in situazioni che il sistema scusami in un certo qual modo le condizioni economiche non ne permettono. Non diciamo cazzate sul sistema, sulle condizioni economiche, amico mio. Ci sono delle cose che accadono, un certo tipo di criminalità in Italia, il lato più deteriore. Ma qual è il lato? Qui ci sono ragazzi di 15 anni. Non si conforma. Ma che vuol dire non si conforma? È impermeabile a certe questioni legate al razzismo. Ma cosa c'entra? L'attacco vile che stai compiendo. Ma l'attacco vile, l'attacco vile è quello. L'attacco vile. Attenzione, che da guitto a far passare questo come aspetto negativo è veramente una cosa cattiva. Roberto, ti segnalo che l'unica cosa qui che c'è di violento. L'unica cosa violenta sono che io. C'è. Tu hai espresso la tua idea e va benissimo, per carità. Cioè, puoi anche dirmi di peggio, non è questo il problema. No. Il problema non è questo. Però quello che dici tu va benissimo. Chiunque entra qua dentro e dice una cosa, a meno che non ci siano delle cose clamorose, eccetera, va benissimo. E il confronto va bene, anche forte, anche rude, anche con una certa veemenza. Il problema è che l'unica cosa violenta qui, siamo in presenza non di un attacco violento da parte mia a Napoli, qui siamo in presenza di un attacco violento da parte di un signore con una pistola a 15 anni. Una pistola che non è una pistola giocattolo, attenzione, è una pistola pistola nella tempia di un signore a 15 anni. E persone intorno che non dico lo giustificano, ma praticamente lo giustificano. Questo tipo di situazioni non c'è in tutte le città italiane, è chiaro o no? La grande maggioranza dei miei cittadini, come posso dirti, in linea con quelli che sono gli ordinamenti giuridici di questo Stato, vedrà la magistratura. Di contralto ti posso dire però il mio modo di vedere, e cioè che se eventualmente ci fosse stata un eccesso di ritorsione, ma non perché napoletano, e perché in un certo qual modo io che sono stato forse anche beneficiario della parte dove era più semplice poter praticamente emergere in questa città, resto comunque fratello e guardo con attenzione. Va bene, Roberto, va bene, d'accordo, va bene. Giuseppe da Lecce. Cruciani, buonasera. Dimmi Giuseppe, dimmi. In questa lotta manichea tra guardie e ladri volevo spostare l'attenzione su una terza categoria che secondo me è ugualmente importante. E quali sarebbero? Avanti. Che è la tua, quella dei giornalisti. Ah, ridai, ragazzi. Perché io penso che in questa storia sicuramente c'è della cronaca e va bene, però si stia aggiungendo a delle conclusioni un po' troppo affrettate, si stanno dicendo delle cose anche pesanti, perché oggi e anche nei giorni immediatamente dopo che è successo insomma questa brutta vicenda. Chi è questo? Di pronto? Sì, buonasera, signor Michele Caruso? Sì, sono io, Cruciani, ti sto seguendo, la Zanzara Radio 24. Ma non riusciamo a fregarti, porca puttana! Non sono riuscito a fregarti, ti volevo fottere! Cornuto! Maledetto cornuto! Schifoso! Di Parenzo! Cornuto, maledetto! Omosessuale represso e frustrato! Cornuto! Che si nasconde dietro alla moglie accasato con prole? Volevo dirti essere un eterosessuale radical chic. Sì, esatto. Scusami, Michele Caruso, io voglio capire una cosa. Palla sia a te che a Telete d'estate quando vai in onda. Io spero che la 7 ti quereli. Del Cairo. Che la 7 ti quereli e ti porti via tutto. Ma credo proprio perché di no. Tu hai fatto interruzione di pubblico servizio con le tue telefonate. Intanto il pubblico servizio lo fa per legge la RAI, che è la TV di Stato alla e quale siccome la 7 non canone, paghi il canone, la fa servizio fa pubblico canone, è gratis, gratis, gratis. Lo fa gratis. Posso dirti una cosa, Caruso? Anche qualora fosse stata la RAI, perché l'ho fatto già con Mirabella, ti devono salute, denunciare. L'ho mandato a quel paese e gli ho anche curato un cancro al cervello perché una volta. Ma perché, poveraccio? Ma perché, poveraccio? Ma poi tu di che cosa vivi? Tutto il giorno cosa fai? Anche se, tutto il giorno cosa fai? Adesso fa l'anchorman. Nonostante questo io l'ho fatto e su delle tirai. Ma tutto il giorno cosa fai? Ho paura a farlo alla sette. Tutto il giorno cosa fai anziché telefonare nelle trasmissioni? No, sei un coglione, non un benestante. Sei un coglione, non un benestante. Che stai dilapidando il patrimonio della tua famiglia. Io ritengo di essere il VIP di VIP, principesco, che neanche un principe, perché loro della dinastia ci sono nati e magari non sono neanche un artista intellettuale di spessore che solo io so quanto valgo. Ma non fai neanche ridere, però. Perché in tanti non mi comprendono. Però scusami, Michele, io voglio dire una cosa. Tu sei ma anche tu sei stato in un reparto di psichiatria, però, da bambino. Sì, cioè, no, sei stato ricoverato. Io sono un omosessuale dichiarato, sempre in prima linea. Ti piace Parenzo? Oh, ti piace Parenzo? No. Faccia, mi sono esposto. Ti piace Parenzo come uomo? Ti piace Parenzo come uomo? Ti piace Parenzo come uomo? Sì, ma un nanerottolo spennato con quella faccia da ebete, cicciottello, brutto che manco la peste, di memoria di Tucidide della guerra del Peloponneso, o di Lucrezio del Romulatura, oppure di quella manzonia degli Ugonotti quando ne parla nei Promessi Sposi proprio. Scusa, Caruso, però la domanda di Parenzo, la domanda di Parenzo non è peregrina. Che cazzo fai tutto il giorno e chiamare alle adesso? Non mi ammorbare con il tuo virus, non mi appestare, Parenzo. Ecco, lascia. Cosa fai tutto il giorno per nulla. Avere il tempo di rompere il cazzo alle televisioni? Come faccio a sbarcare il lunario? Torno esatto, che mestiere fai? Durante il giorno, da persona brillante, torna a ripeterti, artista intellettuale. No, ma che fai? Ma quale artista che non ti conosce nessuno? Se no, come, come incursore di televisione, radio, eccetera. Dai. Sì, intanto leggo tanti libri. Ma come campi? Come campi? Gioco a tennis. Non fa un cazzo. Guardo tanta TV e anche ascolto radio, facendo le mie incursioni, a parte quando partecipo normalmente, nel senso che vengo anche ospitato e richiesto. Ma e figurati, poi mi dico, campo sulle spalle dei miei genitori che mi mantengono. Bello. Sei un mantenuto, sei un mantenuto. Guarda, quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ascolta, ben tre case qui a Roma. No, ma quanti anni hai? Quanti ma anni hai? Chiesto hai? Da chi poi? Aspetta, adesso ti rispondo. C'ho anche la proprietà privata da latifondista in Calabria. Vorrei dire. Ma chi se ne frega? Ma sei un benestante, sei un ricco benestante che può usa fare i soldi dei suoi genitori. Un po' disturbato che può utilizzare i soldi. Bravo, che utilizza. Ma anche io sono radical chic, però a contrario di Parenzo sono un omosessuale che ci mette la faccia. Ma non è questione di omosessuale, sei un disturbato. Ma non è questione di omosessuale, sei un disturbato che non fa un cazzo tutto il giorno, spende soldi non suoi siccome si annoia telefona e rompe i coglioni alle persone che lavorano. Sei un povero disturbato. Questo sei Michele Caruso, troglodita d'amori. Ascolta, non è vero, ancora nel 2020 ci sono tanti che hanno storie di copertura. Ma come che c'entra? Maledetto, disgraziato, perché stai con la donna e c'hai i figli a casa e poi di nascosto vai con gli omosessuali. Ma perché ti vergogni di te stesso, sei omofobo di te stesso. Io ho l'occhio clinico e radio, riconosco quelli come me, hai capito? A ma parte che lo capiscono tutti, come non te ci vuole chissà quale genio, chissà quale. Lo sai? Spiegaglielo tu, Cruciani, perché se guarda, ti posso dire, Caruso, avrei anche l'occhio clinico, ma secondo me in questo caso non capisci in cazzo. L'occhio clinico è un po' disturbato, è un po' distorto. No, l'occhio clinico è lucido quanto la sua testa. Scusa un attimo, secondo te Alessandro Cecchipone lo fa il gay o è veramente gay? Perché lui l'ha dichiarato. Cioè, perché per te lo fa invece? Alberto Matano non l'ha detto, ma secondo no, me no, non è no, non cominciamo, ragazzi. Allora? Non cominciamo con questa cosa, non voglio guai. Allora? Ti assumi le tue responsabilità di quello che dici, non mi interessa. Michele Caruso. Non mi interessa. No, Michele Caruso, a me chi è gay o chi non è gay, non mi interessa. So solo che tu. Perché te la sei presa adesso? Perché te la sei presa con Tagadà? Perché te la. Tu sei eterosessuale, ma non me ne frega niente di dirlo. Io non lo devo dire che mi piacciono gli uomini. Perché te la prendi con Tagadà adesso? Con Tagadà, perché? Del cielo, non siamo più in tempo. Perché te la prendi? Ma non perché te la prendi con Tagadà? Voglio avere l'uomo, vado alla luce del sole, gli sposo e c'ho pure dei figli. Va bene, perché te la prendi con Tagadà? Sì. La pannella. Pannella, sì. Perché hai preso di mira là? Perché hanno fatto Perché? Scusa, pannella, sì. Ho fatto un po' una crati, un lapsus. Ma perché te la prendi con la pannella adesso? Che è successo? Non c'è da fare pomeriggio. Marco Pannella, perché spesso la radio radicale poi mi danno ospite al tempo per intervenire. E voi siete tra le poche radio libere a farlo nel vostro programma. Ma sì, perché sei un disturbato, perché sei un masto. Ho preso di punta la pannella perché questo filo diretto che apre con i virologi, con gli scienziati, medici. Perché è l'unico che basta il telefono. Faccio capire a tutti che il virus numero uno che manco della zanzara è Michele Caruso, vaffanculo! Michele Caruso, troglodita La zanzara. Oh no, la mucchina è finita. Ci penso io, va. Ecco mucchina. Già la usavo, ma adesso di più. Che tutto questo allarmismo che stanno dando. la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire, voglio morire. La gente... Già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Già lo usavo. Io sono mangiato le cose quando stavo con lei, le cose, polpe, pesce. Parenzo. Pippe. You are not an open book, I can't do nothing about that. Chiamato un'amica mia da Radeo e quello è. Dice mo' ha pestato tutti, perché dice stava pure alla sfilata, a carnevale, tutte parti è stato questo. Dice Betty è andata venerdì là e lo studio era pieno pieno perché lui ha tantissima gente sia di Galato in tutte parti. Edoardo, c'è caghi Lucazzi! Questo è il primo di una serie di WhatsApp arrivati che circolano ormai in maniera un po' virale, come si dice, termine orrendo, in tutta Italia. E dove si parla di questo caso del parrucchiere di Aradeo, provincia di Lecce. Questo povero parrucchiere, avete sentito, ha girato da tutte le parti, anche a carnevale, è andato alle sfilate, un sacco di gente che è andata nel suo studio, che sei probabilmente il suo negozio, forse questo taglia anche i capelli, insomma un parrucchiere che si chiama Luigi, non diremo il cognome anche se lo sappiamo, che viene praticamente preso di mira da alcuni abitanti di Aradeo, provincia di Lecce, perché è l'unico caso lì. Tu mo dimmi, no? Ed è stato incosciente di avere un pezzo di merda. Piera Casorona si risputava in un occhio, io dico. Sta bella festa. Si è tornato in casa e la frena e sta facendo finta di niente. Ma là sei proprio pezzo di merda nella fiata. Se la prima non li ventisa. No, no, no, è arrivato un coglione di visti, ma ne impizzaca tutti. No, cu butta lo sangue, no. Insomma, manco se siano veri fino in fondo, impinzica tutti, cioè contagia tutti, e pezzo di merda da sputargli un occhio, vai vai vai. Oh ragazzi, dice che praticamente questo è stato alla zona rossa a Codogno, non aveva comunicato un cazzo, è tornato e aveva faticato per 10 giorni, avete 10 giorni che stia qua, aveva fatto cresime, capiti per carnevale, e la moglie fatica lo gaballo a Galatina. Allora, possediamo numero di telefono di costui in ospedale. Chiamiamo, che dici David? Pare che sia in ospedale, non so dove, ma non me ne frega niente nemmeno di dirlo che ospedale è. Beh, per carità. È certo. Andato ad Aradeo, cioè è di Aradeo questo qua, è un parrucchiere, questo si sa, si può dire naturalmente. E chiamiamo, dai, su, chiamiamo, perché in realtà è un caso che può far ridere un po', questo probabilmente è incazzato, leggo che addirittura c'è un avvocato che è stato messo in mezzo. Pronto? Luigi? Sì? Buonasera, chiamo da Radio 24, disturbo? Guardi, in questo momento sì, sono impegnato con i medici. Lo so, mi scusi, le rubo solo un minuto, sì. se è possibile, perché c'è una cosa incredibile che sta succedendo, cioè la stanno accusando delle peggiori cose, cioè una cosa pazzesca, cioè... Vabbè, ma... No, ma trovo anche che ci sia una gogna nei suoi confronti che è vergognosa, diciamolo chiaramente. Lo so, però sì, facciamo fare il decorso degli ignoranti e basta. Ma lei come sta innanzitutto? No, io grazie a Dio sto benissimo, non ho problemi di niente, meno non male. Ho sintomi di nessun genere. Cioè, non ho capito, lei è stato è positivo o no? Sì, sì, sì, sono positivo. Però è tranquilla la situazione, cioè non ha... Sì, cioè, sì, no. Ecco, ma perché? Di che cosa l'accusano ad Aradeo? Perché non riesco a capire. L'accusano sostanzialmente di non avere detto niente per qualche giorno. Com'è la storia? O di essere stato al nord? Com'è la storia? Di che cosa l'accusano? No, vabbè, guarda, nemmeno io sto capendo che cazzo che vogliono, cioè... Perché guarda, poi sinceramente non mi interessa proprio, vi lascio proprio scivolare, tanto comunque sono degli ignoranti totali e basta. Girano dei WhatsApp, perché girano dei WhatsApp che sono arrivati anche a noi, di persone che la accusano di essere stato al nord, addirittura di non avere detto nulla, cioè lei dove è stato sostanzialmente? No, ma strada. Io sono stato verso Arese, dove praticamente non c'era niente di particolare, niente di come si chiama, e poi comunque mica devo avvertire tutta l'Italia dove cazzo vado io, insomma. Certo. Io il mio dovere l'ho fatto quando sono tornato, ho chiamato il 112, ho chiamato il mio medico di base. Ma lei si è sentito male subito quando è tornato? No, ma io nemmeno dopo una settimana. Ma niente di particolare, io non ho proprio sintomi di niente, non ho tosse, non ho febbre, non ho e niente. Come mai che è andato dal medico allora dopo una settimana? No, sono andato in ospedale perché ieri mattina mi è successa una cosa un po' particolare, ma non sono andato proprio per il coronavirus. E però... sono andato per tutto altro, che poi comunque abbiamo fatto tutti gli accertamenti ed è risultato pure quello. Ma lei ha idea di come possa essere rimasto infettato, cioè di come si possa essere infettato? Ma guardi, io l'unica idea, l'unica cosa penso all'aeroporto di Bergamo. All'aeroporto di Bergamo, perché ha entrato in contatto con più persone lì? Sì, perché già c'era la calca nel momento mannaggia, poi comunque non hanno controllato nessuno, cioè... No, ma nel paese il problema da Radeo è che pensano naturalmente che lei non abbia detto niente per una settimana e che abbia contagiato tutti, ce la trattano come una specie di untore, cioè... Sì, lo so, però purtroppo è... Penso che qualcuno di questo passerà pure i guai. Io ho dato già mano a più di un legale, comunque stanno lavorando. Tutto in mano agli avvocati. Lei che oggi, per esempio, la sua febbre, quant'è la sua temperatura? 37-2. Penso la paura di qualcuno è che qualche deficiente ha scritto praticamente che io sono andato in giro per una settimana con la febbre. Esatto, e questo sì, tanto sì. So chi è che non è, passerà i guai belli e buoni. Poi farò andare lui in giro con il culo di fuori. Sì, cioè in che senso? Cioè, si pentirà? Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Ma con chi sta? Lei isolato lì? Sì, per forza. No? Stanza isolata naturalmente, ma manco i suoi familiari riesce a vedere, che c'ha la moglie? No, perché comunque a parte che poi ci sono pure altri pazienti, insomma, con altre patologie. Anche loro sono isolati, lei che ha una moglie, figli, che cosa? Sì, tutti isolati. Una moglie, due figli, insomma. Hanno fatto il tampone a loro? No, loro, il medico mi diceva, inutile farlo adesso che non serve a niente, massimo me lo faranno. Venerdì, sabato, se comunque hanno sintomi, cioè, però no. No, la cosa che voglio capire è con quante persone lei in questa settimana è entrata in contatto là. Quello è il tema. Ma mica è colpa sua. In questo modo, quelli che sono entrati in contatto non sono riuscito al 99% ad avvisarle tutte, comunque stanno tutte già in quarantena, tutte. Anche i suoi clienti, immagino. Sì, ci mancherebbe. Ma certo, è una cosa incredibile, una sfiga pazzesca da un certo punto di vista. Cioè, lei passando per Bergamo, ma non le è venuto in mente di non andare a Bergamo? Ma io non stavo a Bergamo, io già stavo, ma dovevo partire praticamente, dovevo ritornare. Io tutto il percorso l'ho fatto diversamente. Io dalla Svizzera poi sono andato lì per prendere l'aereo, no? Sì, ma non le è venuto in mente, dice, vabbè, c'è il coronavirus lì in Lombardia, forse. Ma da dove era la zona, diciamo, un po' rossa, sì. Dove stavo io praticamente, non che è scoppiato praticamente un pochettino tutto domenica e lunedì, sì. Io lunedì pomeriggio sono partito, cioè alla fine ti trovi lì, cioè è inutile prenderci in giro, cioè non è che sei partito da qua per andare lì, capito? Come no, tu sei partito per andare in Svizzera, poi tornando indietro hai preso l'aereo da Bergamo, hai pensato, no, quella non è la zona rossa, prendo l'aereo da Bergamo, che cosa vuoi che succeda? Ti abbraccio, avanti tutta, grazie, mi raccomando, avanti tutta, amico sempre, mio, dall'ospedale, speriamo che torni presto a tagliare i capelli. Dai, sì. A presto, a voi, ciao, buona serata. Mi raccomando. Ciao. La Zanzara. Ma io penso che vorrei essere il padre di questa ragazzina. Bene. Vorrei bene. Che fosse mia figlia, bene. Così la prenderei a sberle. No. Right here. Right now. Greta Thunberg. Yeah. Greta Thunberg. Sono un animalista, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Io penso che vorrei essere il padre di questa ragazzina. Bene. Vorrei bene. Che fosse mia figlia, bene. Così la prenderei a sberle. No. Ce la posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Ce la posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. Quanta gente che spinge. Greta Thunberg. La mia gola si stringe, Greta Thunberg. Quanta gente che stringe. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio, godo. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. David! Giuseppe, sto andando ai matti dopo che ho visto questa cosa. Praticano il doga, lo yoga per i cani. Dove andremo mai a finire? Bah. Perfetto. Vengo ad apprendere da Napoli che hanno inventato una specie di pizza in una pizzeria napoletana di Enrico Porzio, dove era ospite, ti ricordi quello con cui litigai a un certo punto, quello di Un Posto al Sole, Germano Bellavia, che me ne ha dette di tutti i colori, mi ha augurato, credo, la morte, il cancro, non so che cosa. Come no? Si sono inventati la pizza Cruciani, cioè con la mia faccia, tra l'altro fatta nemmeno male, devo fare i complimenti al pizzaiolo di quella zona lì, non so dove sia, credo Napoli città. Enrico Porzio è il proprietario di questa pizzeria, che a un certo punto invece devo rimproverare ancora una volta il signor Bellavia, che si è dimostrato un personaggio che disprezza la pizza, che la butta per terra, male. Non bisogna mai prendere una pizza e buttarla per terra, no, c'è tanta gente, che ha bisogno, caro Bellavia. Dunque non fare queste sceneggiate di prendere una pizza e buttarla via, prendila e darla a un barbone, vai alla Caritas, fai un minimo di gesto, fai qualcosa, ma non buttare via la pizza. Questo è accaduto. Questa è la pizza di Germano Bellavia, la pizza che ha fatto Antonio, il nostro pizzaio. Noi gli facciamo un bel piattino da Germano, Germano di Bosta Sud. La pizza preferita di Germano. Si è capito molto poco, tranne un gran casino da questi audio. Sostanzialmente a un certo punto questo Bellavia vede la pizza con la mia volto, con la mia faccia, lo prende, lo butta per terra questa pizza. Vuol dire che però la faccia non era fatta male. Beh, riscuotere un grande successo. La faccia, la pizza Cruciani, roba incredibile. Una roba incredibile, incredibile. La fondazione Mauro da Mantova ci manda altri files. Fondazione? La fondazione Mauro da Mantova. Ma non decidete, vedete un po' voi. Stanno preparando il terreno, sì, perché le elezioni saranno imminenti e sanno che vincerebbe o la Meloni o Salvini. Ma che c'entra? Noi siamo stati infettati. Da chi? Non dai cinesi. Da chi? No. Da quei bastardi di Soros, Rothschild, Merkel, Macron, Juncker, Moscovici. Ma cosa ci hanno voluto punire? Perché siamo stati l'unica nazione alle elezioni europee, sì, pazza, a vincere con il sovranismo. La fondazione Mauro da Mantova, ente, come si dice quando no? Ente pubblico, no, riconosciuto, ente pubblico riconosciuto, come si dice? Come si può dire? No, che so. diffonde, conserva e diffonde il verbo mauriano, questo è il punto fondamentale. Prosegue, ci vogliono fare. Non so se avete sentito la straordinaria tesi mauriana, cioè praticamente questo virus ci è stato iniettato, ci è stato portato in Italia da chi non vuole la vittoria di Salvini. È un delirio, dai. Loro ci vogliono distruggere a raso terreno, perché così noi siamo poi costretti a chiedere aiuto a loro, a chi? E a buttare giù quel poco di sovranismo che ci è rimasto ancora, E diventare gli schiavi. La Grecia, stanno cercando di farci diventare come la Grecia nel 2011 e 2012. Ma è straordinaria questa cosa qua. Il cugino di Ugo Russo. Ogni tanto mi arrivano delle cose. Era un ragazzo d'oro. Non lo giudicate. Un ragazzo d'oro, il cugino di Ugo Russo. Ragazzi, c'è ancora un pensiero mauriano da mandare o no? Mandiamo un altro pensiero in conclusione, un altro pensiero mauriano. Sempre la preziosa fondazione Ente. Parapubblico. Tutta gente che non ha niente da fare, tutta gente che non ha nulla da fare, nulla. Questi sono gli ebrei sionisti. Ma cosa c'entra? Ora avete capito chi sono. Ma chi? Ma chi? Perché sono stati concentrati tutti, ma non dei cinesi. Vedete un po' voi, che figli di puttana bastardi, schifoli. Posso dirti una cosa? Che però tra lui, tra la, il capo, cioè il depositario della Fondazione Mauro da Mantova, l'ispiratore, diciamo, sì, e lo chef Rubio, non c'è molta differenza, eh? Cioè, posso dirti che non c'è molta differenza? Sì, tra... forse... Certo, no, guarda, sì, ti posso dire, non c'è molta differenza, sono assolutamente. Te, sì. Maria Grazia da Milano, vai, Maria Grazia, dimmi. Oh, buonasera ragazzi, vi eccola adoro, eccola, siete eccola, i miei idoli, va eccola bene? Qua, eccola, eccola. Fra eccola poco faremo qua ascoltare, ragazzi, non mollate, perché fra poco faremo ascoltare un meraviglioso colloquio tra, in tempi di coronavirus è importante, tra Rocco Siffredi, Martina Smeraldi e la signora Malena La Pugliese, dando un grande abbraccio a Rocco per la morte del cugino, abbraccio fortissimo. Che era un suo storico collaboratore, lo abbracciamo tutti. Beh, sì, che lavorava con lui, ma questa è una cosa molto seria. È morto una persona, dunque. Non sapevo che non fosse ti permetto, un collaboratore. Sì, un collaboratore. No, pure, non sapevo. Uno che dei grandi ispiratori dell'Academy di Rocco, di tante cose. Un grande abbraccio, suo cugino è morto in questi giorni e lo abbracciamo. Vai, vai, Maria Grazia, vai. Dimmi. Una prece. No, sentite, una io prece. Volevo solo farvi una domanda. Sì, corta. Ma questo carabiniere di Napoli. Sì. Sì. A prescindere che io non giudico nessuno, non me ne intendo, quindi sto nei miei ranghi. Ma come faceva ad avere il Rolex? Che costa una botta? Cosa vuol dire? No, io non lo so come ha fatto. Io la posso aver regalato per la Cresi, ma che vuol dire? Più familiari, che vuol dire? No, ragazzi, guardate, io ho una certa età e ragazzi, so che cosa costano. Ho capito, Maria Grazia, ma questo faceva il carabiniere, magari gliel'ha regalato il padre. Che sapeva che non doveva andare in giro con la fidanzata. Guarda, su questo, il Rolex. Ma esibire il Rolex, a portare il Rolex. Guarda, io sono tra quelli che dicono che il Rolex a Napoli non va portato. Non va portato. Dunque Ioia, che pure giustificava là quello con cui abbiamo parlato prima, non dico che giustificava, ma diceva che il carabiniere non doveva portare la pistola, se mi è sbagliato, perché un carabiniere può portare tranquillamente la pistola. La pistola va bene, ma il Rolex, dire... devo dire la verità, ma non voglio attribuire nessuno. Ma sapete cosa costa un Rolex? Ma ragazzi, ma quello non mi interessa. Ma cosa certo, pensi, ma... che l'abbia rubato il Rolex il carabiniere? Ma no, non è che io non mi permetto di dire qui e là, però sapendo i prezzi che io giro a Milano e lo so cosa, ma cosa costa, vuol dire? Sappiamo tutti cosa costa un Rolex, ma che vuol dire? Appunto dico, ma mi meraviglia che siccome si lamentano sempre questi carabinieri che ma guadagnano cosa c'entra? Poco, ma che stupidaggine, magari gliel'hanno regalati, tutti i parenti si sono messi insieme, gli hanno messo ognuno 200 euro e hanno regalato in ma 10 hanno regalato il Rolex. Una casa, una macchina, ma, cioè, ma chi se ne frega quello che avrebbe regalato, ma chi se ne frega quello che avrebbe regalato lei? Ma mi posso... Io me ne frego, beato, cioè io dico comunque beato. Ragazzi, per carità, possiamo discutere di Napoli quanto vogliamo, anzi forse dobbiamo discutere di quello che è successo a Napoli nei giorni scorsi, però si stanno preparando delle nuove regole sul coronavirus, cioè valide per tutti gli italiani, certo. sembra, distanza di 2 metri, niente strette di mano e anziani a casa, e ipotesi stop di tutte le manifestazioni sportive. Tutte le manifestazioni sportive. Giuseppe ottimo. Provincia di Chieti, vai. Ma che ottimo, ottimo un cazzo, ottimo, ottimo. Che okay. Carmine da Napoli, vai. Fermare Carmine. Le manifestazioni sportive, perfetto. Vabbè, ma che c'entra, dai. Dimmi, Carmine. Tu tremi per la Lazio, allora, questo è il tema. Che me ne frega, Carmine, dimmi. Non sento, Walter da Modena, vai, Walter da Modena. Eccomi qua, buonasera. Dimmi. Allora mi scusi in anticipo con chi è il carabiniere, sei in ascolto. A proposito di quello che avete appena parlato, no? Allora? Io a quel punto è abbastanza semplice. Gli do, questo signore si presenta con la pistola, io glielo do subito. E poi magari lo intrattengo con qualunque cosa per prendere dei particolari. Dopodiché, con i mezzi che abbiamo, cercare una persona, io Napoli lo conosco benissimo perché ci ho lavorato, eccetera. Allora? E allora a un certo punto gli dai il Rolex subito, immediatamente. Poi lo trattieni, no, non so. No, fermo, Walter. Di soldi. Walter, ma in quel momento lì tu guardi delle note, perché noi automaticamente, io, lei, tutti quanti, siamo simili ma non siamo uguali. Lo no. vedi allontanarsi, lo vedi come cammina, cioè sono particolari che io nel mestiere che ho fatto l'ho notato tutto qua. Ma scusa, che mestiere, che mestiere con gli eventuali i carabinieri? No, Walter, che mestiere hai fatto? Che mestiere hai fatto? 80 anni, forse sto dicendo. Ma che mestiere hai fatto? Che mestiere hai fatto, Walter, scusami? Sono in pensione. Questo è chiaro. Case, perciò e progettate, perciò ho avuto bisogno delle persone di capire anche qualcosa in più. Però scusami Walter, tu hai costruito case, non ti occupi, non sei né un carabiniere, non ti occupi di sicurezza, non hai, cioè non no, è che no, tanti anni ho fatto 50 anni di case e ho capito Walter, vai a fare le case, non è ho camminato, ho avuto a che fare con gli ingegneri, con le persone, ho via. Capito Walter, che c'entra, però io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo un'altra cosa molto semplice. Tu stai dicendo, tu sostieni che il ragazzo doveva consegnare il Rolex al rapinatore. Certo. Ma ho capito, ma non puoi. Lo trattenevo un momentino e automaticamente notavo, perché noi. Ma sono tutti bravi. Tutto quello che ti pare, sono però tutti bravi a fare i froci col culo degli altri, direbbe qualcuno. No, ma ascolti. Ma qui non è che puoi. Non è che puoi dire. Perfetta. Il segno del poi è una materia perfetta che non serve a niente. Appunto. È però quello che dico sono io. Sono quelle situazioni che non è detto che sia l'ultima che succede. No, ma non è che no, abbiamo, tu riesci a trovare una persona e poi a Napoli, ma Napoli è circoscritto, cioè non ho capito, amico mio, in quei momenti lì uno non può capire come che cose bisogna fare, come è giusto reagire, eccetera. Ti vedi una pistola puntata alla tempia, quello tra l'altro è un carabiniere, dunque non è che ha l'attitudine ad alzare, non ha l'attitudine ad alzare, no, è preparato, dovrebbe essere. No, ma non ha l'attitudine ad alzare le mani e a dire mi arrendo, ecco qua l'orologio. E voleva proteggere lui e la sua fidanzata, che ne sai, cioè se stesso e la sua fidanzata, che ne sa, non poteva nemmeno sapere quali erano le intenzioni di questo, capito? E ha reagito, questa è la cosa più plausibile. Ma ragazzi, bisogna distinguere tra chi viene preso d'assalto, chi viene aggredito e l'aggressore. L'aggressore, quello stava facendo i cazzi suoi con la fidanzata, punto. L'altro è l'aggressore. Mettiamo subito queste cose in chiaro. Poi il Rolex si può discutere. Banalità è che cosa Carmine, vuol dire? Forse c'è Carmine. Ciao Walter, Carmine, dimmi. Ciao, ciao. Dimmi. Giuseppe, mi senti adesso? Ti sento, dimmi. Ok, il ragazzo che ha rubato la Rolex al carabinieri l'ha seguito prima? Ma probabilmente sì, oppure l'ha visto al volo, non lo so, l'ha visto al volo, l'ha seguito, non lo so. No, però Carmine, scusa, mettiti in una zona che prende, dai, su, amico mio. Ma non si prende un cazzo, Se fossi il papà del ragazzo, andrei a vedere chi ha armato mio figlio. Ma chi ha armato il figlio? Ma forse non è capito, era una pistola giocattolo, ma in realtà quello che diciamo noi era una praticamente una replica, una si replica, potrebbe dire così, una riproduzione sì, di una pistola vera in metallo che sembra esattamente come quella reale che spara proiettili, per cui non è chi ha armato quella pistola, la può aver comprato ovunque. Ma la può aver presa ovunque la pistola. Diego, provincia di Latina, dai Diego. Grande Cruciani, dimmi. Ciao Cruciani, senti, volevo interrogarti volevo farti una domanda. Allora, ammettiamo che il carabiniere non avesse avuto 23 anni e ammettiamo che l'aggressore non avrebbe avuto 15. La domanda che io mi faccio è: saremmo stati a parlare per ore e ore della rapina del carabiniere di 23 anni, dell'aggressore di 15? No, sarebbe stata una rapina come tutte le altre. Ora ti faccio io una domanda a te, ma forse non sarebbe ora di iniziare a vedere se effettivamente i concorsi non devono essere alzati nei limiti di età? Cioè, anziché a 18, magari a 23. Non lo so, amico mio, non lo so, che ti devo dire? Non ho la minima idea, ma non credo, non lo so, cioè, non ho idea, credo che sia tutto adeguato, cioè ragazzi, dai, ciao, Diego, ciao. Ragazzi, come vedete, Marina, Martina è un po' malata. Sì, è un po' quindi, di fosse. Perché ha fatto un po' di troppi deep throat. Ha fatto troppi deep throat, Marina Smera. Sai cos'è la deep throat, tu? No, David? Non cioè, ignoro. Tu non sai che cos'è la deep throat. No, potrei arrivarci deep per E che cos'è? No, io conosco il TTIP, che era il contrario, il TTIP. Come fai a non sapere che cos'è la deep throat? Non lo so. La deep throat, amico mio. Non lo so. Sai che cos'è invece la DP? La DP da double democrazia proletaria, sì, è quella che aveva Mario Capanna. La double, democrazia penetration. DP, perché hanno stravolto? Capanna potrebbe dire: come hanno stravolto questo DP? Una volta era una cosa gloriosa questa DP, adesso viene usata per le cose pornografiche. Hanno abusato di un movimento politico che ha segnato tecnicamente, sì, la storia di questo paese. La utilizzano nel porno adesso. Nel e porno. La utilizzano nel porno, dove si prendono letteralmente a manganellate. Sì, è vero. A manganellate. Allora, io premetto che faccio comunque nei film solo quello che mi piace fare, anche viva, nella vita reale. Mamma, cioè, mia, che testimonianza. Non faccio nei film qualcosa che non mi piace fare. Dunque, ci mancherebbe. Se volete, signora, che faccio qualcosa nei film, mi piace farla anche nella mia vita. Nella vita reale, capito? La double, si parlava della double penetration. Che segno zodiacale è, secondo la signora Smeraldi? Che non se ho di, idea, ma se è di interesse, insomma, se è qualcosa di interesse. Nessuno interesse, sì. Che segno zodiacale è Martina? La domanda. Che segno zodiacale? Sagittario. Un segno di fuoco. Io stavo per dire Troia, però. Però il segno zodiacale è Troia. Sembrava sguaiata la cosa. Sembrava sguaiata. Beh, finito, dai. Aspetta, c'è ancora qualche cosa. No, perché ho una cena, voglio dirti, con uno dei più grandi intellettuali. C'è una deep throat, con un grande mass mediologo. Non posso dire il nome, ma è uno dei più grandi mass mediologi. Gli puoi chiedere, per favore, se sa che cosa significa deep throat. Sono sicuro che lo sa. Sono sicuro. Poi domani lo dici, senza dire nome e cognome. Tu arrivi là, scusami, sai che cosa significa deep throat? Voglio capire se lo. Domani, senza dire nome e cognome. Gola profonda, uno potrebbe arrivarci dall'inglese, ma non riesco a capire. No, voglio capire a lui. Beh, gola profonda, dai, su, David. Invece l'uccello curvo è un vantaggio. Ecco. Per la mia esperienza, sì, perché ho notato che magari ti per come sono fatta io. Sì. Ma curvo o ricurvo sopra? Penso. No, sì. No, qui è qui, differente. Qui è storto. Storto quando è capitato con alcuni attori. Fa male. Devi mettere sempre determinato lato. L'esperienza che ho io dal punto di vista di riprese, quelli storti, riprese, destro e sinistra, fanno male in certe posizioni. Mm-mm. Invece ricurvo, piace. Mamma mia. Eccoci qui, ragazzi, c'è anche questo. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. L'altro suo compare, là accanto, il romano...